Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda la borsa, subito andiamo a guardare gli ultimi aggiornamenti: più 2,20% Milano, più 0,40 Parigi, più 1,70 Francoforte, più 0,50 Londra, più 0,30 l'America. Dicevo 2,20 Milano, che si giustifica soprattutto con un rimbalzo di alcuni bancari. E partiamo subito dal Monte dei Paschi, che dopo la scoppola di ieri, il 21% di calo, oggi recupera qualcosa, l'1,5%, e parleremo di Monte dei Paschi come approfondimento apposito nel corso del programma, perché adesso si inizia a cercare di capire che cosa potrà fare la banca. Lo stesso sindaco di Siena, da noi intervistato, non esclude una possibile aggregazione. È un po' presto per dirlo, ma sicuramente deve correre ai ripari. Di negativo c'è Saipem, meno 6,36%, il calo è pesante. Saipem ha rivisto tutti gli obiettivi sui conti, anche di questo parleremo. Li ha rivisti in negativo e la reazione della borsa è abbastanza inequivocabile. Mentre tra chi va bene segnalo Azimut più 5,50, Enel più 5,20, Mediobanca più 4,60, Fiat Chrysler più 4,25, Telecom più 4, UbiBanca più 3,30, Popolare Emilia Romagna più 3,30 anch'essa, Enel più 3,16, Prismian più 3 come Atlantia, infine Snam più 2,80 come A2A e Exor, e ST Microelectronics più 2,70 come Mediolanum. Intesa San Paolo guadagna il 2,5%, la Pop Milano il 2,30, Tenaris il 2,20 come le generali, ed Eni più 2,1 come Pirelli. I temi di cui ci occuperemo, oltre chiaramente al Monte dei Paschi di Siena e all'andamento di borsa, anche la vicenda Expo, o meglio quanto è accaduto oggi con nuovi arresti, mi riferisco chiaramente alle indagini che hanno visto arrestare 13 persone fra Lombardia e Calabria in un'operazione dei ROS contro l'Andrangheta, l'indagine della DDA di Milano, e al centro delle indagini anche due gruppi nel Comasco, accertati secondo gli inquirenti anche interessi in speculazione immobiliare e subappalti di grandi opere connesse all'Expo 2015, sarebbero stati contattati anche esponenti politici. E questo è un fronte. In apertura torneremo, non ho dimenticato chiaramente il tema, sul taglio dei fondi per i non autosufficienti. È vero che Renzi e Leopoldo ha detto ma no, sarà ripristinato il fondo iniziale, o meglio quello dell'anno scorso, 350 milioni, per ora non ne sappiamo nulla, al di là della dichiarazione. C'è un Consiglio dei Ministri che inizia alle 18, ma ha il compito, o meglio al centro dell'incontro la risposta italiana all'Europa, ossia il ministro Padoan ha chiarito che ridurrà dello 0,3% il deficit strutturale, sono 4,5 miliardi, già alcune indicazioni Padoan le ha date su dove verranno presi questi soldi. Faccio notare che la Francia, al di là della prima presa di posizione iniziale, noi non possiamo tagliare ulteriormente, in realtà ha accettato anche lei le richieste della Commissione Europea di ridurre ulteriormente il deficit strutturale, e andrà a fare una manovra aggiuntiva, diciamo così, una correzione per essere più precisi, di circa 3,8 miliardi di euro, che si avvicina abbastanza alla correzione richiesta da Bruxelles stessa. Dicevo, le risorse per il sociale, e quindi la nostra campagna perché almeno vengano ripristinati i 100 milioni tagliati dai 350 milioni dell'anno scorso, che sono comunque molto meno dei 550 milioni iniziali di due anni fa. Visto che avevo promesso ieri che avremmo dato qualche suggerimento modestamente al governo e al Presidente del Consiglio su dove tagliare, qualche notiziola, alcune di queste già le abbiamo date in queste settimane, su quanto costano complessivamente tutto l'insieme di iniziative e di spese. Faccio notare che, per esempio, non voglio prenderla sempre con i vitalizi dei consiglieri regionali, ma pesano per circa 170 milioni di euro i 3.200 vitalizi. Ora nessuno vuole, oddio, secondo me andrebbero eliminati e basta, e già lo sono stati fatti per il futuro in alcune regioni, già lo si è fatto in altri, si è chiesto di ridurli. Penso alla regione Veneto che ha chiesto che non venga dato il vitalizio per esempio a Galan, 3.750 euro netti mensili, il quale ha patteggiato. Ma in realtà la cifra a cui faccio riferimento, 170 milioni di euro, la dice lunga su quanto si potrebbe prendere da vitalizi per molti, incluso chi vi parla, ingiustificati, perché tu hai fatto il consigliere regionale, l'hai fatto, sei stato pagato, non è un lavoro e non si capisce perché tu debba avere una pensione, tra l'altro di grandissimo favore, ma è un tema vecchio anche se non per questo di minore attualità. Ma ci sono tanti altri sprechi o soldi mal utilizzati prima di arrivare a tagliare la già scarna dotazione di 350 milioni per che serve a non solo i manati di SLA, anche se è ovvio che la battuta sull'ice bucket che si è fatto Renzi, sulla secchiata di acqua gelata proprio per la ricerca e per i manati di SLA viene facile, servono a tutte le famiglie che abbiano un parente, un genitore, un figlio portatore di handicap, e di questo parleremo in apertura con chi rappresenta la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, che si chiama, la federazione si chiama FISH. Ancora, per quello che riguarda i temi, nella seconda parte del programma ci occuperemo chiaramente del Consiglio dei Ministri e anche dell'ennesimo botta e risposta tra il Presidente del Consiglio e il segretario del CGIL Camusso, Susanna Camusso. Ascoltiamo subito Renzi a 8:30 ieri sera e poi la risposta tra virgolette di Susanna Camusso. Il sindacato non fa trattative con il governo, le leggi il governo non le scrive trattando coi sindacati. Se per anni si è pensato che per fare una legge bisognasse chiedere il permesso ai sindacati, beh, si è sbagliato. Noi siamo disponibilissimi ad ascoltare le proposte del sindacato, abbiamo anche detto, guardate, questa è la nostra manovra, ve la illustriamo nel dettaglio, se avete delle considerazioni da farci vi ascoltiamo, se volete mandarci un'email che vi viene più comodo mandateci l'email. Ma è l'ora di finirla di pensare che tutte le volte si alza uno e blocca gli altri. Quindi disponibilità massima all'ascolto, ma nessuno può pensare di trattare sulla legge di stabilità. La legge di stabilità si tratta in Parlamento, che è il luogo deputato a questo. Se i sindacalisti vogliono trattare sulla legge, si fanno eleggere in Parlamento. Ce ne sono talmente tanti che non si troverebbero da soli, si troverebbero a loro agio. Devo dire che troviamo surreale, perché questa davvero non c'era mai successa, surreale che un incontro a così alto livello del governo nessuno sia in grado di neanche, come dire, rispondere alle obiezioni e alle proposte che venivano fatte. Il tema è che non avevano mandato a discutere di niente, questo ci pare il problema. Potrebbe tradurlo in mandateci una mail, che mi pare il modo di comunicare di questo governo. Quanto a mail, vedo che alcuni mi scrivono, un attimo, stiamo organizzando anche la possibilità di twittare al Presidente del Consiglio, che è molto attivo su Twitter, e anche di mandare mail in tema portatore di handicap e le risorse del governo. Confermo quello che Renzi ha detto, se ho visto bene, a margine della Leopolda, e cioè il fondo sarà ripristinato, non vi sarà nessun taglio sul fondo per le disabilità. Però finché non lo vediamo, un po' San Tommaso siamo, e quindi continuiamo in questo in questa nostra piccolissima campagna, che però a mio avviso riguarda davvero sulle cose molto molto presenti migliaia di persone. Nello scambio di battute tra Renzi e Camusso c'è un nuovo capitolo o paragrafo, nel senso che oggi è uscita l'anticipazione di un'intervista rilasciata dallo stesso Premier al settimanale Oggi in occasione dei 75 anni, e in questa intervista dice: vogliamo tenere aperte le fabbriche e non occuparle, perché l'occupazione di cui hanno bisogno i nostri lavoratori non è quella che minaccia il sindacato. Il titolo è abbastanza emblematico, vogliamo l'occupazione ma non delle fabbriche. Allora, sugli stress test volete sapere, sì, parleremo anche di quanto è successo, di quanto sottolineano alcuni, il Sole 24 Ore oggi per esempio fa una ricostruzione molto dettagliata di quello che sono stati gli aiuti della Germania alle sue banche rispetto ai pochissimi aiuti dell'Italia alle sue banche. Ora, non è che sia da premiare un paese che aiuta le banche necessariamente, però vale la pena ricordare che la Germania ha avuto aiuti pubblici pari al praticamente 12,5% del suo PIL dati alle banche, la Spagna il 7% del PIL, la Gran Bretagna il 10% del suo PIL, l'Irlanda vabbè il 41% del PIL, Cipro il 21%, l'Italia è il paese, se vogliamo dirlo in questo modo, più virtuoso, perché da quando è iniziata la stagione dei salvataggi noi abbiamo speso solo lo 0,2% del PIL, e se ben ricordo è soprattutto nel Monte dei Paschi di Siena, con un'obbligazione però a un tasso anche alto, mentre in tutta Europa i vari governi hanno immesso nelle loro banche un totale di 247 miliardi. Invito appunto a leggere l'analisi di Alessandro Merli oggi sul Sole 24 Ore. Questo a dire che insomma non è che gli altri paesi abbiano lasciato che le banche si ristrutturassero da sole. Da questo punto di vista anche a me ha sorpreso molto il giudizio della Banca Centrale Europea, degli stress test su Deutsche Bank o su alcune casse di risparmio tedesche, che non è che fossero proprio messe così bene. Ma torneremo sul tema, ribadiamo quello che abbiamo detto ieri, e cioè che questi stress test sono stati fatti in modo tale da, seguendo i criteri di Basilea 2 e Basilea 3, avvantaggiare di fatto chi ha molta esposizione, ha molti investimenti sui titoli, la banca che è in portafoglio ha molti titoli, rispetto alla banca che ha una grossa esposizione sui prestiti, sui crediti alle piccole e medie imprese. E ci siamo permessi di dire, va bene, questi sono i criteri di Basilea, che sono tutti orientati al mondo bancario del centro-nord Europa, perché la struttura di piccole e medie imprese, che è il 96% del totale delle nostre imprese, ce l'abbiamo solo noi come paese, così forte, così consistente, ed è anche un punto di forza in alcuni casi nei nostri distretti. Facciamo solo notare che non si può continuare a dire che le banche devono prestare alle piccole e medie imprese e non lo fanno abbastanza, se poi però quando facciamo gli stress test avvantaggiamo a livello europeo le banche che investono in titoli rispetto alle banche che investono o che prestano soldi alle imprese. Decidiamoci, perché sennò è ovvio che se io fossi un banchiere in questo momento mi converrebbe avere molti più asset in investimenti finanziari sui titoli che non in crediti a piccole e medie imprese, visto poi come vengono penalizzati questi crediti dalle regole di Basilea 3 che ti obbligano a accantonare molti più soldi. Allora, per altri, sempre sul tema, oggi è intervenuto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, ha detto i risultati dimostrano degli stress test la tenuta delle banche italiane e sono fiducioso che le carenze delle banche saranno coperte dal mercato. C'è anche un intervento del presidente del Consiglio Renzi in tema del Monte dei Paschi, lo ascolteremo dopo, sempre nella sua intervista ieri a 8:30 sulla 7. Nel frattempo oggi la notizia è che la Cassa di risparmio di Genova, l'altra banca pesantemente bocciata oltre a Monte dei Paschi, ha raggiunto un accordo per cedere ad Apollo Management Holdings le attività assicurative per 310 milioni di euro, e questi 300 milioni di euro, se si sommano all'aumento di capitale da almeno 500 milioni di euro annunciato già domenica scorsa dopo la diffusione degli stress test, dovrebbero mettere la banca in sicurezza, nel senso che quello che ha chiesto la BCE dopo gli stress test alla Cassa di risparmio di Genova è appunto un aumento complessivo del capitale di 813 milioni di euro. 310 più 500, insomma, se va a buon fine l'aumento di capitale, direi che ci siamo. Detto questo, Cesare Castelbarco, che è il presidente della Cassa di risparmio di Genova, ammette che li ha sorpresi la dimensione della carenza, cioè gli 813 milioni di euro indicati dalla Banca Centrale Europea. La borsa ha reagito male, come in maniera istintiva il primo giorno, ma oggi mi sembra che la situazione sia tornata a normale. Sì, la Cassa di risparmio di Genova obiettivamente è, come tanti altri oggi sulle risparmio, per esempio guadagna il 5%, è in recupero, non un recupero totale, e vale soprattutto per il Monte dei Paschi, il cui recupero si ferma ed era anche, diciamo, all'1,60%, lì è più complicata la situazione perché bisogna fare un aumento patrimoniale di 2 miliardi e 100. Il gruppo ha già fatto un aumento da 5 miliardi prima dell'estate e a questo punto sta valutando diverse possibilità, cessione di asset, emissioni di obbligazioni di bond ibridi o un rinvio del rimborso dei monti bond ancora in portafoglio. Devo dire, ma ne parleremo più avanti, che forse l'unica via che sembra più percorribile è quella di un'aggregazione, però poi le aggregazioni bisogna trovare un partner per farle e capire se sono alla pari, se vieni fuso in un'altra banca o se acquisisci un'altra banca. Sì, c'è qualcuno che ogni volta mi chiede sugli sviluppi giudiziari del Monte dei Paschi dicendo che siamo omertosi. No, venerdì, se ho ben ricordo, dovrebbe esserci la sentenza e ne parleremo venerdì, quando c'è la notizia. Non abbiamo motivo né per non parlarne né per parlarne quando non c'è notizia. Allora, il rapporto Svimez, già nei nostri GR24 vari servizi vi hanno descritto quello che è il dato sul rapporto Svimez. Insomma, il Sud, lo Svimez è l'istituto di ricerca che ogni anno compie un rapporto importante, dettagliato sull'economia del nostro mezzogiorno. Il Sud si beccherà quest'anno il settimo anno consecutivo di recessione, -1,5%, una previsione tra l'altro più pessimista per l'intero paese, lo dà lo Svimez, -0,4 e non -0,3. Ma la cosa, insomma, che probabilmente farà titolo è uno dei passaggi del rapporto Svimez, sottolineando che il numero dei nati al sud ha toccato il suo minimo storico, 177.000. Pensate che è il numero più basso dal 1861, ed è chiaro, anche se non è l'unica spiegazione, ma è chiaro che il settimo anno di crisi, di recessione, ha un'incidenza anche sulla pianificazione che fanno le famiglie. Non bisogna essere un genio dell'economia per capire che un figlio te lo devi anche permettere, è brutto dirlo ma è così, oltre che volerlo e riuscire a farlo. Ed è innegabile che se per la prima volta ci sono 177.000 nati al sud, e da quando li misuriamo è il numero più basso, pensate che questo vuol dire che sono più i morti che i nati nel mezzogiorno nel 2013. Non era mai successo se non nel 1867 e nel 1918, e quindi alla fine della terza guerra d'indipendenza, vado a memoria, e sicuramente della prima guerra mondiale. Per cui, fatti salvi questi due anni, non era mai successo che i morti nel mezzogiorno superassero i nati e che i nati fossero 177.000. Una buona notizia, anche se chiaramente parziale, riguarda la fiducia delle imprese. A ottobre l'indice è risalito a 89 punti da 86 punti di settembre, ed è migliorato il clima di fiducia degli imprenditori in tutti i settori, quello manifatturiero, quello dei servizi, delle costruzioni, del commercio al dettaglio. Il Centro Studi Confindustria registra a ottobre un marginale recupero dell'attività, ossia la produzione industriale dovrebbe fare più 0,2% rispetto al mese di settembre. Allora, il GIP di Milano, Fabrizio D'Arcangelo, veniamo alla vicenda Ilva. L'ufficio stampa dell'Ilva mi ha detto: avete sbagliato qualche settimana fa a dire che non è più dei Riva. È vero, il gruppo è ancora dei Riva, e se abbiamo detto questo in diretta chiedo venia, ma il GIP di Milano, Fabrizio D'Arcangelo, ha accolto la richiesta avanzata dal commissario straordinario dell'Ilva, Piero Gnudi, di sbloccare e trasferire nelle casse del gruppo circa 1.200.000.000 di euro, che è la cifra sequestrata dalla Procura di Milano nell'inchiesta a carico di Adriano Riva e di due commercialisti. I dati di Assobiomedica: aumentano le esportazioni dei dispositivi medici prodotti dall'Italia, ma il mercato interno continua a contrarsi, -4% la domanda interna rispetto all'anno precedente e -11% la domanda negli ultimi 4 anni. Sono 3.025 le imprese associate a Assobiomedica, e sono praticamente quasi tutte concentrate al centro-nord. Poi Asso Biomedica se la prende su un'informazione superficiale, dice attenti ai luoghi comuni, ai cortocircuiti. Per esempio ormai il mercato delle siringhe viene usato da tutti come esempio degli sprechi e vale solo lo 0,02% della spesa sanitaria, ma ormai è il primo luogo comune della disinformazione sui dispositivi medici. I confronti di prezzo invece richiedono valutazioni non viziate da pressapochismo, che includono fra gli altri parametri come la data d'acquisto, i servizi complementari, la quantità richiesta, la durata della fornitura e della logistica correlata. Tutto vero, e probabilmente dobbiamo fare anche noi ammenda se per così, per un linguaggio più sintetico e anche più d'effetto citiamo la sacca di plasma piuttosto che la siringa e non è quello la grande incidenza della spesa sanitaria. Detto questo, e va benissimo l'obiezione di Asso Biomedica, non dimentichiamoci che ci sono delle differenze enormi nelle spese per approvvigionamento sanitario delle regioni italiane e questo non è contestabile. Che poi non sia corretto usare la siringa, va bene, ma ricordiamo anche ai produttori di dispositivi medici che esistono delle differenze non giustificabili nel territorio, nemmeno se uno va a mettere dentro tutti i vari parametri. Ecco, per cui va bene la precisazione, ma non cambia il ragionamento complessivo. E a proposito di spesa medica, in realtà questa non è spesa medica, si tratta proprio dell'assistenza ai parenti, vuol dire genitori in primo luogo, o i figli che hanno genitori non autosufficienti, o genitori che hanno figli non autosufficienti. Io torno sul tema e non lo molleremo e continueremo a aumentare. Magari oggi dal Consiglio dei Ministri Renzi ci chiarisce anche che il taglio di un fondo che è passato da 550 milioni per scendere l'anno scorso a 350 milioni e quest'anno è calato ulteriormente nella legge finanziaria a 250 milioni, che vuol dire quasi il 30% in meno per un risparmio di 100 milioni, che continuiamo a dire non è pensabile che con 830 miliardi di spesa pubblica, con una manovra da 30 miliardi, tu debba tagliare 100 milioni di euro che vanno, che praticamente le regioni, gli enti locali girano alle famiglie che hanno portatori di handicap in casa e quindi come integrazione spesso servono anche per l'assistenza scolastica, per quello che riguarda i bambini o per gli anziani, non è possibile tagliare proprio lì, altro che ice bucket. Un gioco divertente per chi lo vede più per chi lo fa, visto che l'acqua è ghiacciata, e ringrazio Lorenzo Giovanotti, Fiorello, Facchinetti, Tiziano Ferro, tutti i simpaticoni che hanno pensato bene di chiamare in ballo me. Però è anche un'occasione per dire una cosa seria. Io ho conosciuto la battaglia contro la SLA nella persona di Stefano Borgonovo, fiorino d'oro della città di Firenze, grande punto di riferimento per tanti amanti del calcio e tifosi della Fiorentina. E Borgonovo ci ha insegnato nella battaglia contro la SLA ad avere la dignità. Ecco, se questo piccolo gesto può servire a dare forza alla battaglia contro la SLA, lo faccio volentieri. Nomino e chiamo Roberto Baggio, perché Roberto Baggio ha fatto dal primo giorno la battaglia insieme a Borgonovo, riempendo l'Artemio Franchi per la Fondazione Borgonovo, straordinariamente gestita da Chantal Borgonovo e dai suoi figli, a cui mando un abbraccio. Nomino un VIP che non è un VIP, che è il mio compagno di scuola storico, Paolo Rivoli, che fa il medico e che si occupa nel Servizio Sanitario Nazionale proprio dei malati di SLA. Li tengono a domicilio e cercano di curarli a domicilio nella ASL di Arezzo. Nominando Paolo, nomino tutte le infermiere e i medici che ogni giorno cercano di alleviare le difficoltà di chi soffre. E poi una terza nomina, mi piacerebbe che la secchiata d'acqua in testa se la prendessero anche i direttori di tutte le riviste, dei giornali, dei telegiornali. Sarebbe bello che lo facessero anche loro, perché sarebbe il segno che di SLA non si parla soltanto quando ci sono gesti come questo. E adesso somebody's got to take care of him, wanting more from life than he could give. Allora, Presidente del Consiglio, come la mettiamo? Noi nominiamo lei stavolta, perché questo era, accadeva quest'estate col famoso ice bucket, quindi il secchio d'acqua ghiacciato, e nominava giustissimo il ricordo di Borgonovo e degli infermieri, giustissimo tutto, però tutti devono ricordarsi di questa cosa anche quando si fa la legge finanziaria. Noi non abbiamo motivo per non credere a quello che lei ha detto a margine della Leopolda, che verranno reintrodotti almeno i 100 milioni tagliati, ma in questo momento, stante così le cose, la legge finanziaria che discuterete alle 18 prevede, o adesso anche 4 miliardi e 3, scusatemi, di tagli ulteriori, ma prevede la riduzione del fondo da 350 a 100 milioni. Questi sono i fatti. Poi, se alle 18.30, alle 18.01, lei ci assicura, smentisce e vedremo il decreto per cui non verranno toccati quei fondi, noi smettiamo con questa così sensibilizzazione, questo ricordo, visto che stiamo parlando solo di questa estate. Però nel frattempo, finché non otteniamo questo, ringrazio per averci raggiunto in collegamento Vincenzo Falabella, che è il presidente di FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Buonasera Falabella. Buonasera a lei. Le chiedo un minuto, quattro minuti di pazienza, ho il metodo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. Attenzione, prima di ricevere l'sms, che già immagino cosa c'entra questo con l'economia, stiamo parlando di soldi, e dopo il metodo legheremo anche questi soldi tagliati a non solo i 170 milioni che spendiamo ogni anno per i vitalizi degli ex consiglieri regionali, ma anche i 321 milioni, per esempio, che la Campania non riesce a utilizzare per il dissesto. Allora, o li usi per il dissesto, o magari li prendiamo da te e poi vedremo come riuscirei a utilizzarli, oppure i 12 milioni di euro che da 5 anni il comune di Trapani conserva in bilancio per la barriera sottomarina, ma che è? James Bond, che dovrebbe difendere la costa e che ancora non c'è. Nel frattempo dacci soldi se non li sai utilizzare. Guardate che mettendo assieme, non possiamo raccontarle tutte le cose che citiamo da anni, altro che 100 milioni. minuti. Allora, va bene, eccolo qua il genio. L'uso strumentale dell'handicap è evidente, faccia informazione, non la campagna elettorale. Ma che campagna elettorale stiamo facendo? Guardi che stiamo parlando di fatti, non di altro. E poi un altro che dice: ma come è da anni che sbraitate per il taglio alla spesa e poi piangete quando vi accorgete che vengono tagliati i servizi? No, mi abbiamo chiesto il taglio delle spese improduttive, che si chiamino vitalizi, che si chiamino sprechi, che raccontiamo, mica degli stipendi delle forze dell'ordine o degli infermieri o dei fondi per non autosufficienti. Comunque, vabbè, dai, c'è anche un po' di voglia di polemica, ma veniamo ai dati di fatto. Presidente Falabella, i soldi per aiutare le famiglie con figli o genitori non autosufficienti o parenti non autosufficienti sono scesi da 500 milioni a 350 e adesso 250 milioni. Se il governo malauguratamente dovesse confermare questo taglio di 100 milioni da 350 a 250, questo che cosa vorrebbe dire in termini di servizio reso? Significherebbe comunque incentivare la segregazione e l'emarginazione delle tante persone con disabilità che vivono nel nostro paese, purtroppo. Ma e la cifra di 350 per voi sarebbe sufficiente? Se Renzi dice abbiamo rimpinguato il fondo, quindi resterà come quello del 2013, già questa sarebbe una vittoria per voi? No, questa non è per nulla una vittoria. Al di là dei proclami elettorali, io credo che il governo deve dare prova di dare un segnale di responsabilità. I 350 milioni è un fondo sottostimato. Io vorrei ricordare a tutti che nella programmazione, insieme al Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, si era preventivato un aumento del fondo per la non sufficienza che andava da 400 a 600 miliardi di euro. Queste sono cifre che sicuramente sono ragionevoli. 250 milioni di euro o 350 milioni di euro è una cifra ancora purtroppo sottostimata. Sì, però adesso non ci vuole un genio per dire che è meglio 350 che 250, perché sennò avete un taglio di un altro terzo. E questi sono i soldi? Spieghiamolo bene anche a chi forse non ha nemmeno bisogno di ascoltare, perché mi scrive: quanto rompi le palle Barisoni, ma che c'hai la SLA? Bella battuta, complimenti. Peccato che non si firmi l'ascoltatore. Però detto questo, questi soldi come vengono poi utilizzati? Questi sono fondi che servono per progetti di vita indipendente, per aiutare le persone a rimanere a casa e per garantire alle persone stesse una vita dignitosa. Vorrei evidenziare. Ma vengono dati agli enti locali? No, il meccanismo mi interessa. Questi sono fondi che poi vengono dati agli enti locali, che poi li devono girare sulla base delle richieste della 104 ed altre, dei progetti, no? dei progetti individuali. Quindi anche per le scuole, oltre che per i malati in casa. Anche per l'inclusione scolastica. Io vorrei dire una cosa, però non facciamo confusione. Noi oggi abbiamo un fondo per le politiche sociali che è stato ridotto a 300 milioni di euro e un fondo per la non autosufficienza per disabili gravi e gravissimi, che oggi la legge di stabilità dice essere finanziato a 250 milioni di euro. Detti così, i numeri valgono ben poco. Noi dobbiamo rifarci a un dato fondamentale: l'Istat certifica che in Italia la spesa sociale per la disabilità è inferiore di mezzo punto di prodotto interno lordo rispetto alla media europea. Che significa? Significa che in Italia la spesa pro capite è di 423 euro l'anno, mentre invece la media europea è di 536 euro. In Germania spendono circa 277 euro in più, in Croazia 100 euro in più rispetto a quella italiana. Quindi a dire che non abbiamo nemmeno una spesa per le disabilità più alta della media, come rapporto pro capite di carattere europeo. Ma lei se l'aspettava questa mossa del governo? No, io onestamente, personalmente non ce l'aspettavamo, anche perché da una parte Renzi ha sempre sostenuto di rompere o allentare il patto europeo sull'austerity. Sì, ma non è con 100 milioni che né lo allenti né lo rompi. No, nella maniera più assoluta, però nello stesso tempo non ha ridotto lo spread sulla spesa sociale e quindi sull'investimento della disabilità. Allora, sì, vedo molti messaggi, su questo non posso leggerli tutti, però sì. Io leggo solo quelli più deficienti, va bene, perché ce ne sono molti di seri, ma è giusto che i deficienti anche vengano, si riconoscano. E mi spiega cosa c'è di produttivo nel dare soldi ad un malato di SLA o a chi non è nato. Allora, intanto va bene tutto, ma non è che qua i soldi li diamo solo per chi è produttivo. Non è soltanto per il malato di SLA. Dopodiché, se vuole ragionare in maniera così, non è solo il malato di SLA, continuiamo a dirlo, sono tutte le disabilità. Dopodiché, se vuole essere così cinico, le posso anche dire: andiamo a fare a conteggiare i costi sociali di tutte le persone che devono prendersi un permesso perché non hanno, ma al di là di quello io non voglio neanche arrivare a un ragionamento di questo tipo sul costo sociale, perché è proprio un atto etico e morale, se si può usare questa parola ancora in questo paese, poi vediamo. Invece mi dico una cosa: voi avete annunciato una manifestazione per il 4 novembre, se il governo tornasse indietro e dicesse no, confermiamo i soldi dell'anno scorso, i 350 milioni, la fareste saltare la manifestazione? Ma guardi, noi abbiamo attivato un confronto con con il Ministro dell'Economia e con il Ministro delle Politiche Sociali. In un incontro alla presenza dei due sottosegretari abbiamo avviato un processo di confronto dove abbiamo detto: benissimo, la realtà oggi abbiamo una legge di stabilità che penalizza fortemente le tante persone con disabilità che vivono nel nostro Paese. Cerchiamo di individuare dei capitoli di spesa dove poter intervenire e rifinanziare il fondo. Se questo dovesse avvenire nei prossimi giorni, nelle prossime ore, visto che oggi è in procinto una riunione del Consiglio dei Ministri, noi siamo convinti convinti che la manifestazione può anche essere sospesa in attesa però di una prova tangibile delle promesse fatte dal primo ministro Renzi. Guardi, io personalmente, poi mi sbaglierò, sono convinto che Renzi, anche per l'attenzione che dà ai fenomeni mediatici, tornerà sui suoi passi. Per ora il secchio d'acqua ghiacciato l'avete beccato solo voi, e per voi intendo dire le famiglie che hanno figli, genitori o parenti portatori di disabilità. Spero vivamente, e ho qualche convinzione, che visto il putiferio anche mediatico, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare quello che possiamo, il governo torni sui suoi passi, anche perché obiettivamente, ragazzi, 100 milioni, come poi vi racconterò, sono niente, non solo per una manovra da 30 miliardi, ma in generale sulla spesa pubblica. In bocca al lupo, poi ci risentiremo, casomai non dovesse essere così, al presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, Vincenzo Falabella. Traffico, e poi torniamo a parlare. Dove, qualche consiglio su dove recuperare i soldi, il Monte dei Paschi, la Borsa e il Consiglio dei Ministri che inizia alle 18. Strade in diretta. Il traffico si intensifica in uscita dalle città, queste le notizie di rilievo. Sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, circolazione rallentata per un incidente tra gli svincoli di Cosenza in direzione Salerno. Proseguendo verso nord si incontrano rallentamenti tra Buonabitacolo e Sala Consilina dopo l'incendio di un veicolo. Siamo adesso sulla 8 Milano-Varese, circa 4 km di coda per un incidente tra Castellanza e Bustarsizio in direzione di Varese, particolarmente trafficata la tangenziale ovest di Milano verso la 8 tra Lorenteggio e gli svincoli della 4, sono le conseguenze di un incidente ormai risolto. Infine, per lavori sulla 22 del Brennero si rimane incolonnati fra Trento Sud e Rovereto Nord in direzione Modena. È tutto, a più tardi. Focus Economia. Allora, per esempio, qualche aiutino, al di là dei 2 miliardi e 300 milioni di euro inutilizzati tra fondi statali e comunitari, quelli europei che non riusciamo a utilizzare, ma questo diciamo è la nostra incapacità. 320 milioni di euro che la Campania ha destinato a fermare il dissesto mai utilizzati. Oh, intanto, poi glieli ridate, quando hanno deciso come utilizzarli glieli ridate, ma intanto li prendete. Il comune di Trapani, dicevamo, 12 milioni di euro per la barriera sottomarina, non riesce ancora a realizzare il progetto. Se li riprendiamo e poi quando ha il progetto, fra un anno, fra due anni, glieli ridiamo. Ma potremmo andare avanti, ripeto, 170 milioni di euro per i vitalizi di 3.200 ex consiglieri regionali? Possiamo ragionare? Si può fare chiedere un fondo di solidarietà anche a questi consiglieri che hanno un vitalizio, ex consiglieri che hanno, personalmente ritengo in maniera immeritata, un vitalizio che non è una pensione, ossia tutti i contributi che hai versato perché lavoravi, ma un vitalizio dato alla casta dei consiglieri regionali. Si può chiedere, ma che ne so, un 20% di contributo a personaggi come Galan, che ne prende 3.750 di euro netti al mese, no? O penso alla Regione Veneto, che su questo si è già mossa, si è mossa anche la Regione Lombardia, per carità. Si può chiedere un contributo di solidarietà, immaginiamo, magari migliora anche l'immagine stessa degli ex consiglieri regionali. Poi potremmo andare al Museo Archeologico di Reggio Calabria, l'abbiamo raccontata pochi giorni fa, è costato 36 milioni di euro, a lavori finiti ne costerà 50 di milioni di euro, ma nel frattempo il museo versa in condizioni vergognose, poche didascalie, opere non sempre coerenti, ambiente sporco, cospasso di pedate, sfregi e segnacci, e va buò. Ma andiamo anche in Calabria, perché praticamente in Calabria costano le partecipate delle regioni. Sì, io non posso far risentire la presidente della regione calabrese che diceva ma taglieremo la sanità. Sì, taglia le partecipate intanto. 300 milioni di euro l'anno costano le partecipate calabresi nei vari enti pubblici o di diritto privato, con 9.200 dipendenti, che sono il triplo del personale regionale. Ok, e non voglio andare sull'Ocride Sviluppo, 5 consiglieri di amministrazione, 3 revisori, 2 sindaci, 1 dipendente. Cioè, è proprio il mondo alla rovescia. E ha perso 126 mila euro con un dipendente, immagino che non sia colpa sua, ma dei 5 consiglieri di amministrazione. L'aeroporto Sant'Anna di Capo Rizzuto, con 31 addetti, perde praticamente 1.300.000 euro nel 2008 e continua a perdere 800.000 euro anche nel 2010. Nel 2012 tutte le partecipate calabresi, così ben amministrate, hanno fatto perdere 12 milioni di euro. Ecco che lì si potrebbe prendere qualcos'altro. Ci sono i forestali calabresi, 150 milioni di euro, non abbiamo capito se poi il governo li abbia messi o no. Sono i forestali della regione, non la Guardia Forestale che è nazionale. I forestali, azienda forestale Regione Calabria, AFOR. AFOR. Sono 5.300 in questo caso. Poi ci sono 16 enti pubblici, sempre in Calabria, che ogni anno pesano per 228 milioni sulle casse regionali. Concludo con il mitico, certo sono solo 2 milioni all'anno, no? Ma i cavalli e i cavalieri della regione Sicilia, 65 assunti per 100 cavalli e una statua, sono sempre 2 milioni. Iniziamo a fare come le le brave donne o uomini di famiglia che contano anche gli spiccioli. Vedrai che sti 100 milioni per i disabili li tiriamo fuori. Dai, Presidente del Consiglio, che ce la puoi fare. L'ufficio regionale a Palermo costa 500.000, ma non esiste. Vi ricordate quelli che giravano i pollici 3 ore in senso orario, 3 ore in senso antiorario? Li candidiamo alle Olimpiadi. E potrei andare avanti. Allora, c'è poi la ribellione dei pensionati d'oro della Camera. Pensate che noi spendiamo 243 milioni per le pensioni dei dipendenti della Camera, quelli che si sono ribellati, no, al taglio del 6%, del 12%, del 18% sulla pensione sopra i 150 e i 300.000 euro l'anno. Pure lì diamo un bel esempio, dipendenti della Camera, che quanto a privilegi qualcuno ne avete avuto, un bel contributo di solidarietà. Messe assieme queste cose abbiamo già trovato, modestamente, i 100 milioni che servono per i disabili, per avere almeno i soldi dell'anno scorso. C'è poi chi in Italia di miliardi ne deve trovare, di 2 miliardi e 100 milioni, mi riferisco ovviamente al Monte dei Paschi. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo, al di là dei soldi, ma continueremo con questa campagna, speriamo di finirla presto, vuol dire che il governo è tornato sui suoi passi riferito ai soldi per i malati, per le persone non autosufficienti, e ribadisco, da 350 milioni un altro taglio di 100 milioni, altro che secchiate, questa è la vera secchiata, i 2 miliardi e 100 milioni che deve trovare il Monte dei Paschi di Siena. Già in apertura del programma abbiamo ricordato come la Cassa di Risparmio di Genova abbia annunciato di aver ceduto ad Apollo Management Holdings le sue attività assicurative per 310 milioni, e quindi se si sommano questi 310 ai 500 milioni di euro dell'aumento di capitale annunciato già domenica, quando la Cassa del Risparmio di Genova fu assieme al Monte dei Paschi il bocciato illustre, viene chiesto alla Cassa del Risparmio di Genova, vengono chiesti 813 milioni. Beh, ci siamo, perché sarebbero 810. Diverso il calcolo e la posizione del Monte dei Paschi di Siena. Vi vorrei far ascoltare, nel ringraziare Marco Ferrando del Sole 24 Ore che ci ha raggiunto in studio, anche le dichiarazioni che ha reso il sindaco di Siena Bruno Valentini alla nostra Livia Zancaner. Le varie ipotesi sono, sì, cedere alcuni asset, emettere alcuni bond ibridi, rinviare il rimborso dei Monti Bond, ma anche e soprattutto una fusione. Nella situazione attuale la banca non ha alcun deficit patrimoniale. Il punto è che la borsa penalizza una banca che dovrebbe, a meno che non faccia altre operazioni, ricorrere di nuovo al mercato in una situazione di borsa sfavorevole. Lei ha dato in sostanza un po' la colpa alla passata gestione, ha detto che gli investitori comunque sono sempre penalizzati, ma più che gli investitori i cittadini. È stata la commissione che ha esaminato i conti della banca ad aver dato la colpa alla vecchia gestione, perché ha individuato in 3 fattori le cause della crisi di oggi, e cioè aver acquistato Antonveneta, aver affrontato il ciclo economico recessivo che è cominciato nel 2008 con una politica redditizia espansiva anziché prudenziale. Anche questo, diciamo, mi fa pensare, perché secondo la BCE l'Italia avrebbe dovuto dare meno soldi alle famiglie e alle imprese italiane. Quindi in questo momento il Monte dei Paschi paga per aver messo troppi soldi nei prestiti alle imprese italiane o nei titoli di Stato italiani. E infine per non aver avuto una sufficiente potenzialità nel gestire le richieste di denaro che venivano dal territorio, come una fra tutte il Siena Calcio, che ha prodotto una perdita nei conti della banca di circa, stimata in circa 70 milioni di euro. Ecco, tutti questi fattori risalgono a metà del primo decennio del 2000, quindi dal 2007 al 2010. Quindi non possiamo imputare all'attuale management queste scelte scellerate, in alcuni casi anche criminose o criminogene. Cosa dovrebbero fare ora? Lei ha un'idea? Oggi la via non è altro che riconquistare la fiducia dei clienti e dei dipendenti puntando su valori forti, e probabilmente dovremmo fare oggi quello che avremmo dovuto fare qualche anno fa, cioè cercare una via, diciamo, di aggregazione che non puntava solo alla crescita dimensionale in sé, ma un dimensionamento per efficienza. Quindi non è contrario il sindaco di Siena all'ipotesi anche di un'aggregazione. Non voglio tornare su dove erano tutti i vari esponenti della senesità negli anni in cui Mussari & Company di fatto distruggevano, poi vedremo le varie responsabilità, ma distruggevano la più antica banca del mondo. Non distruggevano nel senso che la banca non stia in piedi, voglio essere chiaro, ma hanno recato un danno mica da poco, dove erano tutti un po', anche a partire da i vari esponenti delle istituzioni senesi, la fondazione e quant'altro. Però Marco Ferrando, le soluzioni che si aprono ce la possono fare solo con un bond ibrido, cedendo qualche asset, rinviando il rimborso dei monti bond? Non è così scontato, nel senso che i 2 miliardi che la BCE ha indicato come la mancanza di capitale sono quelli che servono per arrivare alla linea di galleggiamento. Se poi si vuole pensare di essere in grado di, come dire, navigare serenamente per un po' di tempo, in teoria servirebbero anche altre risorse. Quindi di lì a pensare che con 2 miliardi appunto ce la si possa cavare, poi, insomma, non è così facile, ed è per questo che si ragiona su più scenari, a partire da quello che diceva il sindaco. E sentire queste parole dette così, come dire, con nonchalance dal sindaco o di Siena oggi effettivamente fa un po' effetto. Un anno fa, o per non dire 2 anni fa, non si sarebbero mai potute ascoltare. Sì, e vabbè, non voglio oggi, già sto polemizzando col governo sui tagli non autosufficienti, però insomma un po' di autocritica, ragazzi, l'abbiamo spiegata la vicenda quando è scoppiata. Tra i vari ci sono dei reati su cui sono indagate delle persone, e vabbè, c'è stata anche una tendenza esasperata a voler mantenere la senesità della banca, la fondazione a tutti i costi doveva aver presa sulla banca, si poteva fare operazioni di maggior respiro, di carattere anche di aggregazione, non dico internazionale ma nazionale, prima, adesso le fai praticamente con il cerino in mano. È ovvio che sei in una posizione di maggior difficoltà, e lo dico appunto con nessuna invidia per la posizione di Viola e di Profumo, soprattutto di Viola in questo caso, perché se veramente si aveva a cuore il futuro del Monte dei Paschi di Siena, bisognava anche rinunciare a un po' di controllo della città sul Monte dei Paschi e a un utilizzo, diciamo, del Monte dei Paschi come grande erogatore di fondi alla città. Qui mi fermo. Marco Ferrando, secondo te quando avremo una risposta dai vertici del Monte dei Paschi? Sappiamo che entro 2 settimane devono presentare un piano a Francoforte, quindi al massimo entro i primi giorni di novembre qualche risposta, il piano ci sarà. Non dimentichiamo peraltro che comunque Siena deve anche, il Monte deve anche raffrontarsi con Bruxelles, perché comunque avendo ricevuto i Monti Bond di fatto è vigilata speciale, motivo per cui oggi il Monte Paschi si muove tra la BCE, tra Bruxelles, diciamo Banca Italia e il Ministero del Tesoro per quanto riguarda i Monti Bond, e il mercato. Il passaggio è veramente molto stretto. Vediamo poi la reazione del titolo oggi in borsa. Il Monte dei Paschi ha un rimbalzino, diciamolo così. Passiamo subito alla pagina di borsa, più 1,40%. Siamo sempre in chiusura a 79 centesimi di euro, Marco. Sì, ieri ha perso il 23%, no, un pochino meno, 21. Il 21%, questo vuol dire che in un giorno ha bruciato 1 miliardo. Questo dà l'idea di quanto sia veramente sottile il filo su cui cammina la banca, perché evidentemente un conto è chiedere al mercato 2 miliardi se ne capitalizzi 5, un conto è chiederne 2 se ne capitalizzi 3. Quindi tu prima parlavi di tempi, effettivamente le 2 settimane sono necessarie, non solo perché lo chiede Francoforte, ma perché bisogna dare un messaggio chiaro al mercato: la situazione non è fuori controllo, come peraltro non è. D'altronde, voglio dire, l'operatività prosegue, quindi su questo bisogna essere chiari. Però comunque il mercato in tutte le sue componenti, dai soci attuali a quelli magari futuri, hanno bisogno in tempi rapidissimi di risposte chiare. Il resto resto della borsa, oggi dicevamo in recupero, più 2,35% contro l'1,80 di Francoforte, lo 0,40 di Parigi e il più 0,60 di Londra. Molto bene Azimut, più 5,80, Enel Green Power più 5,50, Mediobanca più 4,70, Telecom più 4,5, come Fiat Chrysler più 4% fa la Popolare Emilia Romagna, più 3,30 Atlantia ed Enel ed Ubibanca, e anche Snam. Il 3% lo guadagnano A2A e Prismian, ma anche Mediolanum ed Exor. Male invece Saipem, meno 5,80%, e allora... mentre oggi Twitter è affondata in borsa a New York dopo la trimestrale, meno 13%, però vorrei con Ceo Condina di Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera Ceo. Buonasera a tutti, ciao. Mediobanca, che oggi ha diffuso i dati trimestrali da un lato, e Azimut, mentre sul fronte opposto Saipem. Ma diciamo subito di Mediobanca, oggi ha diffuso appunto i conti del primo trimestre, come noto loro hanno un esercizio basato sul 30 giugno, quindi questo è il primo trimestre che si è chiuso a settembre, utile netto di 160 milioni che è calato rispetto all'anno scorso, ma è stato comunque nettamente migliore delle attese del mercato che puntavano a 120 milioni, quindi già questo è stato un punto a favore che ha spinto il titolo. Poi ci sono state le dichiarazioni del numero uno di Mediobanca Alberto Nagel, che si è auspicato una cedola più generosa per questo esercizio, e chiaramente quando si parla di dividendi elevati il titolo cresce subito. Per quanto riguarda Azimut non ci sono motivi particolari, oggi è stata comunque una giornata favorevole per buona parte dei titoli finanziari. Invece, sempre a proposito di trimestrali, però la vediamo appunto come maglia nera del listino, Saipem perde il 5,8%, qui una trimestrale in calo, ma soprattutto c'è il tema delle previsioni per fine anno, con un utile che è atteso nella parte bassa della forchetta che era stata precedentemente indicata al mercato, e un debito netto che viene previsto a 4,7 miliardi di euro, e in precedenza si stimava tra 4,2 e 4,5 miliardi. Vorrei concludere con due titoli: da un lato la Cassa del Risparmio di Genova, di cui abbiamo appena parlato, ma vorrei sapere l'andamento in borsa; dall'altro l'Enel, perché la Presidente, e mi riferisco a Patrizia Grieco, ha annunciato il taglio del debito entro fine 2014, ha confermato l'interesse per gli asset di E.ON in Italia e in Spagna. Sì, diciamo che uno dei principali focus di Enel, come poi delle principali utility aziende energetiche europee, è il taglio del debito. Enel su questo fronte molto efficiente, la Grieco ha annunciato che verranno mantenuti i target, anzi ha promesso ulteriori misure appunto a sostegno del taglio del debito. Per quanto riguarda l'altro, mi ha citato Carige invece ha chiuso a più 0,6%, aveva cominciato bene, aveva cominciato in forte rialzo, così come il Monte dei Paschi. In più per Carige c'era anche la cessione delle due compagnie assicurative per 300 milioni al fondo Apollo, poi si è afflosciata per chiudere a più 0,6%. Evidentemente tra gli investitori c'è ancora un certo disorientamento dopo il crollo di ieri di borsa legato agli stress test. E andiamo allora sui migliori e peggiori di borsa di oggi. Miglior titolo Beon più 22%, la debuttante. È salita ancora. Bene, insomma, per chi l'ha comprata, a noi piace quando una debuttante va bene in borsa, più 22%, Hyreal più 10%, Sacom più 9,35%, fronte opposto invece Worldspace meno 25%, Sanofi meno 10%, Seat Pagine Gialle meno 8%. Grazie a Ceo Condina di Radio Corriere Sole 24 Ore. Ultimo tema, visto che il Consiglio dei Ministri che deve correggere la manovra finanziaria dello 0,3% sta iniziando. L'altro tema invece è la nuova, non dico ondata, ma gruppo di arresti effettuati oggi tra Lombardia e Calabria, 13 arresti. Voi direte: cosa c'entra con un programma di economia? Ahimè, e purtroppo c'entra, perché erano interessati in speculazioni immobiliari e subappalti di grandi opere connesse ad Expo 2015, contattando anche esponenti politici, e al centro delle indagini due gruppi nel Comasco. Le 13 persone, tra l'altro il PM Boccassini ha fatto notare che in una delle imprese indagate, aveva avuto la certificazione antimafia per lavorare in due subappalti dal valore di 450.000 euro per la tangenziale est di Milano. La sintesi dell'intera operazione ce la fa la collega del Sole 24 Ore, Sara Monaci. Sara, buonasera. Sì, buonasera. Allora, è un'operazione molto complessa che ha a che vedere con le infiltrazioni dell'Andrangheta in Lombardia, quindi non si può, diciamo, riassumere in un solo, con una sola operazione. Si tratta di operazioni malavitose che avevano a che fare con tanti appalti, che in particolare hanno anche delle modalità che abbiamo visto in altri ambiti, spesso in altre zone d'Italia, e che evidentemente ormai sono anche abitudini diffuse al nord, quindi contatti con mafiosi, con andranghetisti già in carcere, che riuscivano dal carcere a dare ordini attraverso dei contatti, delle persone che facevano, diciamo, la staffetta, e riuscivano comunque a controllare appalti e movimenti pur avendo già avuto una pena detentiva. Quindi una complessa rete familiare che è a capo della famiglia di Antonio Galati, diciamo il capo di questa famiglia, che riusciva ancora a impartire ordini tramite figlio e nipote. L'Expo è anche questa volta stato, non direttamente, indirettamente, ma ovviamente gravemente. L'appalto di cui stiamo parlando in realtà è un subappalto, sì, un piccolo subappalto della tangenziale esterna d'est di Milano, che è un'opera connessa ad Expo, nel senso che quando è stato presentato il dossier di candidatura c'era la PIE, quindi in Europa c'era anche quest'opera a cui si lavorava ovviamente da prima. È un'opera, diciamo, che serviva a dimostrare quali sono i lavori che si stanno compiendo in Italia. Ecco, si tratta di un subappalto, un piccolo subappalto rispetto a un'opera che vale 2,1 miliardi, chiaramente dall'idea però della capacità di infiltrarsi dell'Andrangheta in Lombardia. Sì. A me è impressionato vedere anche, e lo ricordava la Boccassini, che una di queste due ditte aveva avuto la certificazione antimafia. Infatti. Ed è riferibile a Giuseppe Galati, boss dell'Andrangheta, sì, in Lombardia, che è tra, sì, i destinatari delle misure cautelari eseguite stamani. Sì, è una società che si chiama Scavedil, che quindi ha anche un nome straniero, che ricorda appunto anche una società ucraina, dove loro sembra che appunto poi si volessero anche rifugiare. Sto leggendo adesso proprio in queste ore l'ordinanza del GIP di custodia cautelare. Ci sono appunto degli intrecci, anche la volontà di fuga all'estero. Detto questo, sì, è un'azienda che aveva avuto una certificazione dalla prefettura. Io sto facendo delle verifiche, in prefettura non confermano né smentiscono, mi dicono che stanno facendo delle verifiche, degli approfondimenti su ciò che è avvenuto, perché c'è un ufficio che è preposto a dare dei bollini, ecco, bollini anticriminalità. Eh beh, certo, è fondamentale per poter lavorare anche per l'Expo, no? La certificazione, esatto, antimafia. Sì, tanto che molte aziende sono state proprio interdette, una cinquantina di aziende sono già state sollevate, interdette dalla stessa prefettura, proprio perché sospettate di essere colluse con associazioni criminali. Grazie anche a Sara Monaci. Vedremo, ripeto, non è l'aspetto forse principale, però tu ci confermi che si sta cercando di capire come cavolo sia possibile che un'impresa riconducibile al boss dell'Andrangheta Giuseppe Galati abbia ottenuto la certificazione antimafia. Ora, quando trattiamo queste materie, tutto si può pensare, ma non all'errore, casomai a cattive informazioni, ma non all'errore così un po' naif. Grazie anche a Sara Monaci. Ultima notizia prima di chiudere, ma è particolarmente importante. Si starebbe avvicinando il via libera alla legge di stabilità italiana da parte della Commissione europea, e quindi alla nostra legge finanziaria. lo citano fonti di Bruxelles, la decisione, quindi il via libera, dovrebbe già arrivare nelle prossime ore, quindi potrebbe arrivare già entro stasera, e anche per la Francia arriverà un via libera dopo che la Francia ha annunciato che anche lei correggerà di 3 miliardi e 8 la sua finanziaria. È attesa a breve una comunicazione della Commissione Europea. Nel frattempo io auguro a tutti voi in ascolto una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.